Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Michele Mellara e Alessandro Rossi, registi del documentario Paolo Fresu, musica da lettura, ben trovati. Grazie, anche a voi. Come lo presentereste? È un lavoro per noi inconsueto, nel senso che è un film ovviamente musicale, un film concerto, un film evento, e non ci eravamo mai cimentati in un'operazione del genere come registi. È nato un po' casualmente, perché effettivamente avevamo realizzato un videoritratto più breve di una quindicina di minuti, sempre con Fresu. Dopo la visione dello stesso, Paolo ci ha chiamato, ne è rimasto entusiasta e ci ha proposto di collaborare a questo bel lavoro. Tutto il progetto è nato un po' in corsa, perché è un film dedicato ai 60 anni, al compleanno di Paolo Fresu, ai 40 anni di musica, e quindi, essendo degli amanti comunque della sua musica e stimandolo molto come trombettista, abbiamo accettato sull'onda dell'entusiasmo, anche se i tempi per realizzare questo progetto sono stati molto brevi. In sintesi, si tratta di un concerto ambientato nella meravigliosa scenografia della biblioteca storica dell'Archiginnasio di Bologna, in varie sale della stessa, nel quale Paolo suona con vari musicisti in diversi ensemble, passando da una tradizione a lui cara della musica jazz a situazioni nelle quali il jazz si contamina con la sinfonica e con la musica brasiliana e con la musica contemporanea e più sperimentale. Quindi per noi è stato entusiasmante, è stato molto coinvolgente, e pensiamo che il film restituisca da un lato la complessità e la ricchezza della trama musicale di Paolo Fresu e dall'altro il sapore estremamente affascinante delle location in cui i musicisti hanno suonato, quindi delle varie sale della biblioteca dell'Archiginnasio. Ecco, visto che vi piace il musicista, realizzare questo lavoro e starci a stretto contatto, che ne avete ricavato? Ma innanzitutto un grande piacere all'ascolto mentre stavamo girando. È stato particolarmente emozionante partecipare con la troupe alla costruzione delle scene e ad ascoltare come primi ascoltatori, e in questo caso come live, come unici ascoltatori, perché non c'erano spettatori, a questi brani che sono estremamente vari, come diceva prima Michele, nelle loro contaminazioni, nelle loro riferirsi a culture musicali diverse, e allo stesso tempo tutte unite dalla magia della tromba e del flicorno di Fresu. Quindi è stato un arricchimento in prima persona come ascoltatori. E poi è stato bello riscoprire il nostro Archiginnasio, che già conoscevamo, che già avevamo filmato per il nostro recente Vivere che Rischio, e vederlo come luogo da utilizzare anche con le dovute cautele, con il rispetto che abbiamo messo in ogni dettaglio, come luogo di visibilità della nostra città. Come sai, siamo molto legati a Bologna, molti dei nostri film traggono nutrimento dalla nostra città. Quindi di nuovo tornare a Bologna per raccontare un evento unico, ecco. Che circuitazione? Il film ha un'uscita anche su YouTube nel canale di Paolo Fresu, che anticipa anche, anzi, l'uscita su la Rai, quindi su YouTube, sul canale di Paolo Fresu, sarà già disponibile mercoledì alle 19, e lì continuerà ad avere una sua presenza, ed è un canale molto molto frequentato, come puoi immaginare, nel senso che i fan e gli amanti di Paolo Fresu sono tantissimi, non solo in Italia. E quindi proseguirà naturalmente all'interno di questo canale, poi presumibilmente la Rai lo manterrà nel suo palinsesto digitale online su Rai Play. Un altro elemento importante che ci stavamo dimenticando è che Bologna non c'è solo come Archiginnasio, ma Bologna c'è anche in un suo grande artista, cioè Alessandro Bergonzoni, che è una specie di ironico, divertito e poetico accompagnatore di questo viaggio di Fresu, e quindi non c'è soltanto musica in questo film. Paolo Fresu, musica da lettura su Rai 5, mercoledì 10 febbraio 2021. Un saluto e un ringraziamento ai due registi Michele Mellara e Alessandro Rossi. Un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Viva il lupo e grazie a voi. Ciao. Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi per presentare la guida allo streaming proprio di Sentieri Selvaggi. Sergio, ben trovato. Ciao, ciao, è sempre un piacere farsi una chiacchierata insieme, Federico, certo, quindi ben ritrovati entrambi. Sì. Come ti dicevo poc'anzi, fuori onda, mi è stata anche utile come strumento, raccontaci un po' di cosa si tratta. Noi durante il primo lockdown, ormai lo chiamiamo così, insomma a marzo dell'anno scorso, abbiamo iniziato a ragionare in maniera un po' più massiccia delle proposte delle piattaforme, perché ovviamente tutti quanti ci siamo ritrovati a non avere altro mezzo per fruire il cinema e anche ad avere un sacco di tempo in più e di modalità in più per poterlo fare. Quindi da subito, come ovviamente tanti colleghi, tanti altri siti, tante altre riviste, l'attenzione con le sale chiuse, con le proposte sempre più massicce delle piattaforme si è spostata sullo streaming. Però quello che da subito ci siamo detti sin da marzo era: se c'è qualcosa di mediamente positivo in questo momento di sospensione dell'agenda di chi fa il nostro mestiere, è proprio quello di rendersi conto che le maglie troppo strette con cui le distribuzioni, gli uffici stampa, i press agent costruivano, no, il fulcro del nostro discorso, per una volta erano saltate. Non per forza bisognava parlare del film in uscita, del festival del momento, c'era un momento di libertà in qualche maniera paradossale, sono tutti chiusi dentro casa, perché poi l'oceano è sterminato delle proposte online, e quindi abbiamo detto no, facciamo una guida che tenga conto delle grandi uscite, del calendario delle grosse piattaforme, ma che cerchi pure però di porsi in maniera trasversale, cercando di dire sì, ma non fidiamoci soltanto dei portali, delle home page, andiamo un attimo a cercare qualcosa di meno battuto e di più interessante, perché ci sembra l'unico modo per continuare a fare del cinema anche un discorso che abbia a che vedere con il presente, come una sorta di link continuo, di connessione continua con quello che succede là fuori. E non sempre questo accade con le piattaforme e con alcune proposte un po' troppo magari settate. E quindi sì, è una guida allo streaming allargato, espanso, chiamiamola così. Quante persone impegna questa ricerca e poi come avete deciso di muovervi? Divertente questo fatto delle persone, perché ovviamente ci sono grandi chat dove ognuno, no, tira fuori la propria proposta. Ovviamente appunto le piattaforme sono diventate un nuovo calendario su cui chi fa giornalismo e critica cinematografica si muove, e quindi ci sono i comunicati ufficiali, ci sono gli uffici stampa, c'è insomma un lavoro che ha ripreso la modalità del lavoro precedente. In più, potendo contare su un numero di giovani che vengono dai nostri corsi di critica, dalla nostra area didattica, che sono proprio, come si dice in gergo, degli smanettoni di grandissimo livello, li abbiamo lanciati verso anche lì di dove magari noi dopo 10 anni e passa di coperture tra virgolette per mestiere, no, abbiamo pure perso un po' quella modalità di saper scovare gli angoli più bui. E quindi ecco, è un po' a metà tra parlare in questo momento Malcolm e Marie, no, di Sam Levinson, un po' il titolo che sta catalizzando, però anche andare a vedere che cosa si dice su piattaforme più piccole e anche dentro, come ci raccontavamo prima, la proposta un po' caotica di RaiPlay, no? Perché poi non tutte le piattaforme sono ordinate allo stesso modo, alcune sono abbastanza difficili da decifrare, no? RaiPlay, per quanto stia facendo dei grandissimi passi in avanti nell'ultimo anno, resta una piattaforma non proprio user friendly, se possiamo dirlo, È un'uscita mensile e più o meno quanti titoli segnala? Sì, l'uscita è mensile, è, insomma, è molto difficile, siamo sui 3-4 titoli per piattaforma, il che appunto è molto poco, ad esempio per quanto riguarda Netflix. Insomma, questo 2021 vedrà questa guerra dello streaming arrivare a livelli mai visti prima. Netflix ha idea di presentare 1 o 2 inediti a settimana, ad esempio domani esce questo nuovo film di Greengrass, no, che noi segnaliamo nella guida, ed è un altro film molto atteso che però segue di pochissimo un'altra uscita importante, che era quella appunto del film di Sam Levinson. La Warner con HBO uscirà con una serie di titoli enormi, insomma è difficile anche andare a selezionare i titoli, perché è un momento in cui questa streaming war sta raggiungendo livelli veramente degli studios classici nell'epoca di maggiore espansione della Hollywood, della Golden Age. Per cui ci muoviamo con un'uscita mensile, l'idea poi è recensire tutti quelli che abbiamo segnalato nella guida, che non sono già stati recensiti, quindi diventa una guida anche per noi, cioè per quello che poi andiamo a fare durante il mese, perché molte sono anticipazioni, altri invece sono titoli che abbiamo visto nei festival o che sono passati in altra maniera, quindi abbiamo già recensito, e questo diventa un po' lo scheletro di come si muove il sito durante il quotidiano, insieme poi a tutta un'altra serie di segnalazioni magari legate a uno streaming più spurio, no? Però non meno interessante, i video di YouTube, le web series, tutto quello che non è ancora stato canalizzato dalle grandi piattaforme, ma che invece è ancora visibile online. È un lavoro che appunto che abbiamo intrapreso da quando siamo stati tutti confinati, ma che per noi è importante anche proprio sulla questione dei formati, non solo film, non solo serie TV, ma anche per esempio uno show comico, magari invece pure un super videoclip, insomma, con un'attenzione anche a tutto quello che non è solo legato al linguaggio cinematografico propriamente detto, ecco. Si può parlare di un interesse binario, da una parte cortometraggi, film di finzione, documentari e dall'altra le serie? Sì, ma non in parallelo, ma in maniera non euclidea, mettiamola così, no? Cioè, delle volte queste rette parallele si incrociano quando magari una serie è particolarmente d'autore, o quando magari invece, penso ad esempio all'ultima serie Marvel, WandaVision, apre una serie di connessioni con i film che sono già stati fatti o che verranno. Quindi al momento non è tanto o più una suddivisione netta, o per esempio un altro grande titolo di cui si è parlato in questo primo periodo del 2021, che è Sampa, la serie su San Patrignano. Quello è un documentario, ma costruito con una serializzazione forte, quindi è anche difficile definirle, no? Ormai questi tipi di prodotti, un po' tutto si è serializzato, ma allo stesso tempo c'è sempre una tendenza sempre maggiore verso il cinema, no? Penso sempre appunto a Malcolm e Marie, che è un film girato in pandemia, ma è girato in bianco e nero, in pellicola, quindi c'è un tentativo sempre di avere il cinema come sponda, anche quando il linguaggio si fa un po' più contemporaneo. Quindi sì, i binari sono due, ma non vanno in parallelo, sono un po' tortuosi, ecco. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? L'Ammiraglia è il nostro sito, sentieriselvaggi.it, poi se uno cerca Sentieri Selvaggi su Facebook trova la nostra pagina social, e poi abbiamo questa uscita di approfondimento che è un bimestrale cartaceo, una campagna abbonamenti che è appena ripartita nel 2021, esce ogni due mesi, esce su carta, il che è un'altra scommessa folle, ma insomma siamo al secondo anno, per cui a quanto pare anche quella sta reggendo, e il prossimo numero sarà interamente dedicato alla questione dello streaming, quindi siamo totalmente in tema con quello che ci siamo detti, e sull'idea che abbiamo vissuto un anno in cui gran parte dei festival, tutto magari Venezia e in parte il Festival di Roma, si è fatto in streaming, quindi una sorta di mega streaming film festival. Allora, anche difficile su My Movies capire ormai a quale festival apparteneva quale film, no? Quella è una rivista magari dove ci prendiamo spazi più puramente critici, anche per discutere del senso di questo tipo di proposta, di questo tipo di modifiche dell'industria festivaliera e produttiva. La guida allo streaming di Sentieri Selvaggi, un saluto e un ringraziamento a Sergio Sozzo. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, grazie a voi, ciao. Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le consuete novità mensili di questa piattaforma. Paco, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Cosa si muove? Allora, devo dire che questo mese abbiamo avuto il piacere di accogliere veramente parecchie opere, sia nella parte editoria che nella parte film, e molte di queste assolutamente interessanti, anzi molte di queste le seguivamo già da tempo. Una su tutti sicuramente è Footballization, è un film girato nella periferia di Beirut. Il tema toccato è anche quello della diaspora palestinese, ed è un tema che non viene neanche toccato a sufficienza. Esiste ancora oggi una diaspora palestinese che vive stabilmente da decenni in quelle zone e di cui spesso si perde un po' traccia. Footballization in realtà è un film documentario incentrato tutto sul mondo del calcio, quindi la chiave di lettura è quella, ma ovviamente va a toccare anche tutta una serie di nodi politici. Di questo impasse, che il nome, la parola impasse dovrebbe indicare qualcosa di temporaneo, invece parliamo di famiglie che ormai da tre generazioni vivono in campi profughi. E la chiave di lettura attraverso la lente dello sport, secondo me, rende il lavoro anche molto più trasversale dal punto di vista del una modalità diversa anche per conoscere concretamente com'è la vita di queste persone dentro questi campi. Ed è un film molto molto bello, anche se vogliamo leggero, comunque piacevole, però riesce secondo me con una chiave delle letture interessante a raccontare appunto questa storia e queste vicende. Poi abbiamo Ghiaccio, che è un film davvero molto bello che seguivamo da tempo, ambientato nella provincia di Torino. Di nuovo anche qui lo sfondo, se vogliamo, è lo sport, in questo caso lo sport relativo all'hockey sul ghiaccio, anche se ha un altro nome specifico, adesso non sto ricordando, che non è esattamente l'hockey. Però la cosa bella è che questa squadra ha avviato un percorso di integrazione con ragazze e ragazzi migranti, arrivati ovviamente nella zona attraverso il flusso migratorio che conosciamo, quindi principalmente dal Mediterraneo, e attraverso questa squadra, quindi di sport, se vogliamo, popolare, quindi quel filone anche di utilizzo dello sport come pratica di integrazione, di aggregazione, di socialità, questa squadra poi ha avuto anche diversi riconoscimenti sportivi e quindi insomma attraverso lo sport si è aperto un percorso anche di emancipazione, se vogliamo, di queste persone coinvolte. Abbiamo fatto poi nei giorni scorsi, purtroppo non è più disponibile perché era un'anteprima temporanea, ma ci tengo a segnalarvelo, La scuola nella foresta, un mediometraggio documentario molto prezioso che è stato online per alcuni giorni, perché adesso ovviamente anche a causa della pandemia anche noi stiamo facendo come molti le anteprime temporanee, ed è stato messo online in occasione della giornata internazionale di tolleranza zero contro le mutilazioni genitali femminili. È un film molto duro, se vogliamo, ovviamente anche per i temi trattati, ma che ha già fatto un ampio giro di festival e di riconoscimenti internazionali proprio per i temi che tratta. È ambientato in Liberia, un paese dove la mutilazione genitale femminile è tuttora oggi legale, e ovviamente anche questo è un tema, secondo me, purtroppo troppo spesso lasciato ai margini del discorso politico collettivo, e che invece fa parte delle sfide che noi dobbiamo essere in grado oggi di cogliere anche in questi processi di trasformazione globale, che è anche una trasformazione culturale, se vogliamo, che abbiamo di fronte. E quindi insomma ci ha fatto molto piacere ospitare quest'opera prodotta dal collettivo Zona, anche se appunto probabilmente poi arriverà in catalogo nei prossimi mesi stabilmente. Poi abbiamo Divieto di transito, che è un cortometraggio molto bello, secondo me, che in realtà in questo caso è un cortometraggio che preannuncia poi l'uscita di un lungometraggio vero e proprio nel 2022, dedicato alla figura di Porpora Marcasciano, una figura di spicco, soprattutto qui nel panorama bolognese, anche perché ha fondato ormai diversi anni fa il MIT, il Movimento Italiano Transessuali, che è una realtà politica sia del territorio bolognese ma anche su chiave nazionale molto importante, che negli anni insomma ha portato avanti diverse battaglie fondamentali per il riconoscimento dei diritti di queste persone. Porpora è una persona che conosciamo tutti molto bene, soprattutto qui a Bologna, ed è in questo caso un cortometraggio interamente dedicato alla sua biografia, in qualche maniera, che racconta un po' tutto il suo percorso fin dalla giovane età, ed è un lavoro che merita anche perché in certi casi la storia la fanno anche le persone, se vogliamo, non solo la storia con la S maiuscola, ma soprattutto quella con la S minuscola, che è fatta di esperienze anche personali, individuali e tutto ciò che ne consegue. Quindi siamo molto contenti di avere quest'opera in catalogo e appunto di accogliere poi, quando sarà pronto, anche il film vero e proprio. Tra l'altro Porpora è una grande amica di Radio Onda Rossa. Ecco, allora diciamo che giochiamo ulteriormente in casa, è così. Io mi baso ovviamente sulla rete territoriale bolognese per ovvie ragioni biografiche mie e nostre, però appunto so che è una persona di riferimento per tante battaglie, ed è importante che si facciano anche questo tipo di lavori di documentazione, perché anche il racconto delle vite individuali fa parte di quello che è invece un bagaglio e una memoria collettiva, perché poi ripeto, non c'è mai una vera distinzione netta tra quello che sono le nostre biografie di vita e quello che sono le esperienze collettive, quindi insomma un lavoro che davvero vi consiglio. Un altro che vi segnalo, di cui sicuramente avete avuto modo di parlare, è l'ultimo lavoro invece di Matteo Officina Multimediale, quindi il collettivo di Gibo, che sicuramente conoscete bene anche voi. Il lavoro, il documentario si chiama Non ci vede nessuno. Sì, ed l'abbiamo ospitato. Lavoro, esatto, immaginavo. Ed è un lavoro quindi che, come già avete avuto modo di parlare, racconta in diverse città italiane, tra cui anche Bologna, Roma e molte altre, quali sono state le esperienze di solidarietà dal basso che sono emerse fin da subito, già nelle prime settimane della pandemia. Questo è un tema secondo me estremamente prezioso, di conseguenza anche questo film è un tassello fondamentale per un percorso che noi dobbiamo secondo me assumerci, nel senso che è chiaro che è molto bello che siano nate tante esperienze solidali e che siano nate in maniera anche molto veloce e rapidamente. Servirà secondo me tra qualche mese, magari adesso forse ancora presto perché siamo ancora molto dentro questa fase estremamente complicata, però sarà importante anche cominciare a tirare delle somme. Perché secondo me il valore di queste storie, di queste reti solidali, è molto più importante di quello che già gli stiamo dando, nel senso che, se ci pensate, anche prima della pandemia era già da tempo che ci facevamo una serie di domande su cosa intendevamo oggigiorno per senso di comunità e in tutte le sue sfaccettature. E penso che questa risposta, se vuoi anche all'inizio molto di pancia da parte di tutta una serie di reti territoriali, ma che poi nei mesi si è anche consolidata, sia davvero quel valore aggiunto che prima cercavamo a parole e che ora vediamo nei fatti. Lavori come questo ci possono aiutare a fare quel lavoro proprio di mappa mentale, di cominciare anche a tracciare il dopo, perché dobbiamo cominciare anche a fare i conti su questo dopo, perché questo dopo arriverà tra non molto, nel bene come nel male. Sappiamo che le sfide che ci aspettano sono parecchie, quindi questo tipo di lavori sono preziosissimi proprio in questa direzione del discorso. Chiudo con un'altra segnalazione invece, in arrivo da Roma e dal collettivo Elementi Kairos, che è una casa editrice che collabora con noi da molti anni, di cui siamo veramente felici di avere i loro libri in catalogo. Abbiamo avuto in passato la traduzione italiana di Fiabe Resistenti, piuttosto che Prossima Fermata, che è il libro fatto a quattro mani da Ere Pusce, da Zero Calcare, sulla vicenda di Biagetti. Ed è una realtà estremamente attiva con cui collaboriamo da tempo e che adesso è uscita con un nuovo libro che si chiama Blackout, un noir utopico in un presente distopico, diciamo che il sottotitolo apre già a molte interpretazioni, e a differenza di altri lavori questo, come appunto dicevo anche nella presentazione, è un vero e proprio romanzo. Spesso loro hanno prodotto anche lavori o di traduzione di racconti e di fiabe, come il caso di Fiabe Resistenti, oppure fumetti, come il caso di Prossima Fermata. Non è il primo romanzo che questa casa editrice propone, ovviamente, ma è sicuramente uno dei più interessanti, perlomeno nella produzione dell'ultimo biennio di questo collettivo, e siamo ben felici di allargare la libreria virtuale di Elementi Kairos su OpenDDB, perché è davvero una realtà estremamente interessante, che non ha mai avuto esitazione anche sul scegliere in maniera molto precisa che taglio politico dare alle proprie opere, e senza mai dimenticare che c'è anche un taglio politico. Per cui ecco, continua la collaborazione con loro, ovviamente su OpenDDB.it, oltre a questo libro e oltre ai film che vi ho appena raccontato, trovate anche tantissime altre opere. Oggi il nostro catalogo ha superato le 500 opere in catalogo, quindi un catalogo molto vasto che ha tutta l'intenzione di proseguire anche nei prossimi mesi con nuove anteprime in arrivo. Le novità del mese di OpenDDB Distribuzioni dal Basso. Un saluto e un ringraziamento ad Andrea Paco Mariani. Un abbraccio, un in bocca al lupo, al prossimo appuntamento. A presto, ciao. Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.